Capitolo 15. Sul salice. Quell'estate il vecchio albero vide molte scenette e sentì molte confidenze, essendo divenuto il ritiro favorito di tutti i ragazzi, e pareva esserne lieto, perché riservava loro sempre un'amabile accoglienza e le quiete ore passate fra le sue braccia riuscivano salutari per tutti. Un sabato pomeriggio ne ospitò un gran numero e un uccellino raccontò poi quello che vi era successo. Le prime ad arrivare furono Nan e Daisy, armate di bacinelle e di pezzetti di sapone, perché ogni tanto erano prese da un accesso di pulizia e andavano a lavare nel ruscello i vestiti delle bambole, perché Asia non le voleva fra i piedi nella sua cucina ed era loro vietato l'accesso al gabinetto da bagno. Dopo che, per colpa di Nan, l'acqua si era rovesciata fuori dal lavabo, sgocciolando pian piano attraverso il soffitto nella stanza sottostante. Daisy si mise sistematicamente al lavoro, lavando prima la roba bianca e poi quella di colore, sciacquandola bene, poi stendendola ad asciugare su una corda assicurata fra due cespugli e fermandola con una serie di pinze che Ned le aveva fabbricate. Nan, invece, mise tutti i suoi piccoli indumenti in molle nella stessa bacinella e poi se ne scordò e si dette a raccogliere la lanugine dei cardi per riempirne un cuscino destinato a Semiramide, regina di Babilonia, una delle sue bambole. Fu un lavoro lungo, e quando la signorina Sventatelli andò a levarli dall'acqua, i suoi panni apparivano tutti macchiati, perché la fodera verde di un mantello aveva stinto, imbevendo graziosamente gli abiti rosa e celesti, le piccole camere e persino le sottanine increspate. «Povera me, che pasticcio!» sospirò Nan. «Stendili sull'erba in biancare», consigliò Daisy con l'aria di chi se ne intende. «Già, poi ci siederemo nel nido e staremo attente che il vento non li porti via». La guardaroba della regina di Babilonia fu così distesa sulla riva e rovesciate le loro bacinelle, le piccole lavandaie si arrampicarono sull'albero e si misero a chiacchierare come le signore nei momenti di riposo fra un lavoro domestico e l'altro. «Voglio fare anche un materasso di piume da accompagnare col cuscino nuovo», disse la signorina Sventatelli, facendo passare la piuma dei cardi dalla tasca dell'abito nel fazzoletto e perdendone così una buona metà. «Non glielo consiglio. La zia Jo dice che i materassi di piume non sono sani. Io esigo che i miei bambini dormano sempre su materassi di lana», ribatté con tono deciso la signora Shakespeare Smith. «Io non ci bado. I miei figlioli sono così forti che spesso dormono per terra e non soffrono affatto. Inoltre non mi piace rifare i letti. Forse che Tommy vorrebbe farle pagare la piuma?» «Forse sì, ma io non la pagherei e lui non se la prenderebbe a male», rispose la signora Sventatelli, speculando vilmente sulla ben nota bonomia di Tommy Banks. «Ho paura che il rosa di quel vestito scolorisca prima della macchia verde», osservò la signora Shakespeare Smith, guardando in basso e cambiando argomento perché differiva su molti punti dalla sua interlocutrice ed era una signora prudente. «Poco male. Sono stufa di bambole e ho idea di metterle via tutte per occuparmi delle mie terre. Lo preferisco ai lavori di casa», disse la signora Sventatelli, ignara di esprimere il desiderio di molte signore più anziane di lei, che però non possono sbarazzarsi delle loro famiglie con altrettanta facilità. «Ma non deve abbandonarle, moriranno senza la loro mamma», esclamò la tenera signora Shakespeare Smith. «Muoiono pure, sono stanca di darmi tanto da fare coi bimbi piccini e voglio andare a giocare coi ragazzi. Hanno bisogno che li tenga d'occhio», rispose l'energica signora. Daisy non sapeva nulla dei diritti della donna. Ella prendeva tranquillamente quanto desiderava e nessuno contestava il suo diritto perché non aveva aspirazioni irraggiungibili. Ma si valeva inconsciamente dell'onnipotente diritto della sua influenza per ottenere dagli altri tutti quei privilegi dei quali si era mostrata degna. Nan, invece, tentava ogni sorta di cose senza lasciarsi scoraggiare dai peggiori insuccessi e reclamava fieramente il diritto di fare tutto quello che facevano i ragazzi. Essi ridevano di lei, la cacciavano via e protestavano contro la sua ingerenza nei fatti loro, ma il suo ardore non si smorzava per questo, ed ella finiva per farsi ascoltare, perché era dotata di una volontà molto forte e aveva lo spirito di un violento riformatore. La signora Baer simpatizzava con lei, pur cercando di frenare il suo indomito desiderio di sconfinata libertà, dimostrandole che prima di reclamarla doveva imparare a dominarsi e a saperla usare. Nei suoi momenti di docilità, Nan riconosceva che quelle osservazioni erano giuste e a poco l'influenza esercitata su di lei faceva il suo effetto. Non dichiarava più di voler fare il macchinista ferroviario o il fabbro ferraio, ma si volgeva verso il lavoro dei campi, trovandovi uno sfogo all'energia accumulata nel suo irrequieto corpicino. Non già che la soddisfacesse del tutto, perché la salvia e la maggiorana erano mute e non potevano ringraziarla delle sue cure, mentre lei aveva bisogno di qualcosa di umano da circondare d'affetto, da aiutare col suo lavoro, da proteggere. E non era mai tanto felice come quando i più piccini le portavano un dito con un taglietto, una testa ammaccata, un braccino contuso da accomodare. Questo suggerì a mamma Jo di insegnarle a farlo bene, e la bambinaia acquistò un'alunna che mostrava una gran disposizione per fasciare, mettere in piastri e fare su fumigi. I ragazzi cominciarono a chiamarla dottor Sventatelli, e questo le piaceva tanto che mamma Jo un giorno disse a suo marito: «Fritz, ora capisco che cosa possiamo fare per questa bimba. Ha già bisogno di qualche cosa per cui vivere e finirà per essere una delle tante donne aspre, dure e scontente, se non riesce ad averlo. Non soffochiamo la sua natura irrequieta, ma facciamo del nostro meglio per darle il lavoro che desidera e cerchiamo di persuadere suo padre a lasciarle in seguito studiare medicina. Riuscirà ottimamente perché ha coraggio, nervi saldi, un cuore sensibile, un grande amore e una viva pietà per i deboli e i sofferenti». Papà Baer dapprima sorrise, ma poi volle fare la prova e assegnò a Nan un orticello, insegnandole le varie proprietà delle erbe medicinali che vi coltivava e lasciandole sperimentare la loro virtù sui bimbi nelle piccole indisposizioni occasionali. E la imparava in fretta, ricordava bene e mostrava un'intelligenza e un interesse molto incoraggianti per il professore, che non le chiudeva la porta in faccia col pretesto che era solo una piccola donna. A questo ella pensava quel giorno sul salice, e quando Daisy disse col suo solito garbo: «A me piace occuparmi della casa e voglio averne una bella per Demi quando saremo grandi e vivremo insieme», Nan rispose con tono deciso: «Beh, io non ho fratelli e non desidero una casa che mi dia un mucchio di fastidi. Io avrò uno studio con tante boccette, cassetti e pestelli, andrò in giro con un cavallo e una vettura per curare i malati e sarà un gran divertimento». «Come puoi sopportare quella roba che puzza e quelle atroci polverine e l'olio di ricino e la senna e lo sciroppo per la tosse?» gridò Daisy con raccapriccio. «Mica li devo prendere io, quindi non mi importa. E poi fanno guarire, a me piace curare la gente. O che il mio decotto di salvia non ha fatto passare il mal di testa a mamma Baer? E i miei lupoli non hanno spazzato via in 5 ore il mal di denti di Ned? Lo vedi dunque? E attaccherai le sanguisughe? Taglierai le gambe? Strapperai i denti?» chiese Daisy, che tremava solo a pensarci. «Sì, certo. Poco male, se la gente è ridotta in pezzi, io li rimetterò insieme. Il mio nonno era dottore. L'ho visto una volta ricucire un lungo taglio sulla gota di un uomo. Ho tenuto la spugna senza ombra di paura e il nonno ha detto che era una ragazza coraggiosa». «Come hai potuto? A me fanno pena i malati e mi piace curarli, ma le gambe mi cominciano subito a tremare e bisogna che scappi. Io non sono una ragazza coraggiosa», ammise Daisy con un sospiro. «Bene, potrai essere la mia infermiera e attendere ai miei malati quando io debbo purgarli o tagliar loro le gambe», disse Nan, che evidentemente intendeva esercitare il lato eroico della professione. «Olà, della nave! Dove sei, Nan?» chiamò dal basso una voce. «Siamo qui?» «Olà, olà!» ripeté la voce, ed Emil comparve sostenendosi una mano con l'altra, il viso contratto in un'espressione di dolore. «Che c'è?» chiese Daisy ansiosa. «Una maledetta scheggia nel pollice che non vuol saperne di uscire. Vedi un po' tu, Nanni!» «È cacciata molto giù e non ho un ago», disse la bimba, esaminando con interesse il pollice tutto impiastricciato di catrame. «Prendi uno spillo», suggerì Emil, che aveva fretta. «No, è troppo grosso e non è abbastanza appuntito». A questo punto Daisy, dopo aver ficcato la mano in tasca, presentò loro un grazioso astuccio con 4 aghi. «Ah, tu sei la piccola provvidenza che ha sempre quanto ci occorre», disse Emil, e Nan decise di portare di regola in tasca una cartina di aghi, perché casi come quello le si sarebbero presentati spesso. Daisy si coprì gli occhi, mentre Nan tastava e pungeva con mano ferma, ed Emil le dava istruzioni irreperibili in qualsiasi trattato medico. Appoggia a tribordo, forza ragazzi, forza! Prova un'altra abbordata! Su, l'ancora, eccola! Succhia, ordinò il dottore, osservando la scheggia con occhio esperto. Troppo sporco, rispose il paziente, scuotendo la mano che sanguinava. Aspetta, se hai un fazzoletto te lo fascio. Non ce l'ho, prendi uno di quegli straccetti là. Ma sentilo, no davvero, sono i vestiti della bambola, protestò Daisy indignata. Oh, prendi uno dei miei, te lo do volentieri, disse Nan, e lasciandosi scivolare a terra. Amy la afferrò al primo straccetto che gli venne sotto mano, e che era proprio la sottana increspata. Ma Nan la fece a pezzi senza protestare, e quando la regale gonnellina fu trasformata in una bella fascia, licenziò il suo paziente con l'ordine: tienlo umido e in riposo. Guarirà presto e non ti farà male. Quanto ti devo? Chiese il comodoro ridendo. Niente, io ho uno spensario. È il posto dove i poveri sono curati gratis per niente, spiegò Nan dandosi delle arie. Grazie, dottor Sventatelli. Non mancherò di chiamarvi tutte le volte che ne avrò bisogno. Ed Emil si allontanò, ma prima si volse indietro per dire: I vostri straccetti volano via, dottore. Perdonandogli quell'espressione poco rispettosa, le due damine scesero in fretta dall'albero e, raccolto il loro bucato, si ritirarono in casa per accendere il piccolo fornello e mettersi a stirare. Il vecchio salcio si scosse sotto un soffio di vento, quasi ridesse dolcemente delle chiacchiere infantili sentite nel nido, e si era appena ricomposto quando altri due uccelletti volarono su per cinguettare confidenzialmente. Ora ti devo confidare una cosa, cominciò Tommy gonfiandosi tutto per l'importanza della notizia. Su, parla, rispose Nat, rimpiangendo di non aver preso il violino. C'era tanta ombra e tanta pace lassù. Beh, noi ragazzi si stava parlando dell'ultimo caso interessante di evidenza circostanziata, disse Tommy, citando a casaccio da un discorso tenuto da Franz al club. E io ho proposto di fare un regalo a Dan per compensarlo dei nostri sospetti, mostrargli la nostra considerazione, eccetera, capisci? Qualcosa di bello e di utile che possa conservare sempre ed esserne orgoglioso. Indovina che cosa abbiamo scelto? Una rete per acchiappar farfalle? Ne ha tanta voglia, disse Nat, con aria un po' delusa perché aveva pensato di regalargliela lui. No, signore. Un microscopio, ma uno proprio coi fiocchi, che ci si vede nell'acqua quella roba che non so come si chiama, e le stelle, le uova di formica e ogni sorta di cose. Non sarà un bel regalo? Disse Tommy, facendo una discreta confusione fra microscopi e telescopi. Straordinario! Come sono contento! Ma costerà un mucchio di soldi, no? Chiese Nat, lieto che il suo amico cominciasse ad essere apprezzato. Certo, ma daremo qualcosa a tutti. Io ho firmato per il primo impegnandomi per $5, perché se si deve fare questo regalo ha da essere proprio bello. Come? Tanto così? Oh, non ho mai visto un ragazzo generoso come te, disse Nat guardandolo con sincera ammirazione. Che vuoi? Quel denaro mi ha dato tante seccature che me ne sono stufato e non voglio più metterlo da parte, ma spenderlo via via che lo guadagno. Così non susciterò invidie, nessuno me lo ruberà e io non sarò costretto a sospettare la gente e a tormentarmi per i miei soldi, rispose Tommy, su cui pesavano duramente le preoccupazioni e le ansie di un milionario. E signor Baer te lo permette? Ha trovato che era una bellissima idea e ha detto che molti degli uomini fra i migliori che si conoscano hanno preferito fare del bene col loro denaro anziché accumularlo perché venisse poi sperperato dopo la loro morte. Tuo padre è ricco? Fa così anche lui? Non ne sono sicuro. So solo che mi dà tutto quello che desidero. Quando andrò a casa gliene voglio parlare. A ogni modo, il mio esempio gli servirà. E Tommy parlava così seriamente che Nathan non osò ridere, ma disse in tono rispettoso: Tu potrai fare molte cose col tuo denaro, no? Così ha detto papà Baer. E mi ha promesso di consigliarmi circa il modo di spenderlo. Comincerò con Dan, e quando avrò di nuovo almeno $1 penserò a Dick, che è tanto un buon figliolo, e non ha che un soldo alla settimana per i suoi minuti piaceri. Non può mica guadagnar molto lui. Allora voglio cercare di aiutarlo. E il buon Tommy non vedeva l'ora di cominciare. Mi pare un bellissimo progetto e neanche io penserò più a comprarmi un violino. Regalerò a Dan la rete per le farfalle e se avanzerà qualcosa me ne servirò per il povero Billy. mi vuol tanto bene e per quanto non sia povero gli farà piacere un mio regaluccio, perché io posso scoprire quello che desidera meglio di tutti voi. E Nat si mise a speculare quante persone potrebbero far felici i suoi 3 dollari. Farò così anch'io. Su, ora, andiamo a chiedere a Papa Bear se ti lascia venire con me in città lunedì nel pomeriggio. Così potrai comprare la rete mentre io compro il microscopio. Verranno anche Franz e Emil e ci divertiremo un mondo a girare per i negozi. I ragazzi si allontanarono a braccetto discutendo i nuovi progetti con comica gravità, ma cominciavano però a sentire la dolce soddisfazione di coloro che tentano, sia pure in forma modestissima, di essere la provvidenza in terra dei poveri e dei derelitti e di indorare il loro obolo con l'oro della carità, prima di riporlo là dove i ladri non possono penetrare a rubarlo. Montiamo su a riposarci mentre scegliamo le foglie. È così bello e fresco qui, disse Demi, che tornava con Dan da una lunga passeggiata nel bosco. Benissimo, rispose Dan, che era di poche parole. I due ragazzi salirono sull'albero. Perché le foglie delle betulle tremano più delle altre? Chiese Demi, che era sempre sicuro di ottenere da Dan una risposta ai suoi quesiti. È per il modo come sono attaccate. Non vedi che il gambo dove si unisce alla foglia è come strizzato in un senso e dove si unisce al ramo in un altro? Per questo oscillano al minimo soffio. Invece le foglie dell'olmo sono attaccate diritte e si muovono meno. Che cosa curiosa! E anche queste? E Demi gli tese un ramoscello di mimosa che aveva staccato da un alberetto sul prato perché era così bello. No, queste sono delle specie che si chiudono se si toccano. Fa scorrere il dito lungo la parte di mezzo del gambo e vedrai che le foglie si arricciano, disse Dan, che stava esaminando un pezzetto di mica. Demi provò e subito le foglioline si ripiegarono su se stesse finché il ramoscello mostrò una sola fila di foglie invece di due. Mi piace. Ora parlami delle altre. Queste che fanno? Chiese Demi scegliendo un altro ramo. Servono a nutrire i bachi da seta, che vivono sulle foglie del gelso finché non cominciano a fare il bozzolo. Una volta sono stato in una fattoria dove si allevavano e c'erano stanze piene di craticci tutti coperti di foglie e i bachi le mangiavano così in fretta che si sentiva il rumore. Certe volte mangiano troppo e allora muoiono, dillo a Staffi. E Dan rise mentre prendeva un altro pezzetto di roccia con sopra un lichene. Io so una cosa di queste foglie di verbasco. Le fate le usano come coperte, disse Demi, che non aveva del tutto rinunziato alla sua fede nell'esistenza dei piccoli esseri verdi. Se avessi un microscopio ti farei vedere qualcosa di più bello delle fate, disse Dan, chiedendosi se sarebbe mai arrivato a possedere quell'ambitissimo tesoro. Ho conosciuto una vecchia che si serviva di queste foglie come cuffia da notte quando aveva male alle gote. Le cuciva insieme e le portava sempre. Questa è buffa. Era la tua nonna? Io di nonne non ne ho mai avute. Era una vecchia curiosa che viveva sola in una casa mezzo rovinata con 19 gatti. La gente diceva che era una strega, ma non era vero, sebbene avesse l'aria di un vecchio fagotto di stracci. Era molto buona con me, al tempo che vivevo da quelle parti, e mi lasciava scaldare al suo fuoco quando quelli dell'ospizio mi trattavano male. Sei stato in un ospizio? Per un po', ma non ci badare, non avevo intenzione di parlarne. E Dan interruppe di botto il suo insolito accesso di confidenza. Parlami dei gatti, ti prego, disse Demi, spiacente di aver fatto una domanda indiscreta. Oh, non c'è nulla da raccontare. Ne aveva un mucchio e di notte li teneva in un barile. Io certe volte mi divertivo a rovesciarlo e a lasciarli scappare per la casa, e allora lei li sgridava e li rincorreva e li rimetteva dentro, sputacchiando e urlando come una furia. Li trattava bene? Chiese Demi col suo riso infantile così piacevole a udirsi. Credo di sì, povera vecchia. Raccoglieva tutti i gatti sperduti e malati della città, e chi ne voleva andava da mamma Weber, e lei gli lasciava scegliere la razza e il colore, chiedendogli solo 9 soldi. Era così contenta di mettere i suoi gatti in una buona casa. Mi piacerebbe conoscerla. Potrei, se andassi in quel posto? È morta. Tutti i miei sono morti, disse Dan secco. Oh, scusami. Ed Amy tacque per un poco, cercando un nuovo argomento non pericoloso, Sebbene gli sembrasse indelicato parlare della morta signora, pure era tanto curioso che non poté resistere e chiese dolcemente: «Curava quelli malati?» «Qualche volta. Uno si era rotto una gamba, lei gliela fasciò sopra uno stecco e quella guarì. Un altro aveva le convulsioni e lei lo curò con delle erbe finché gli passarono. Ma ce n'erano che morivano e lei li seppelliva e quando non li poteva guarire, li ammazzava senza farli soffrire.» «E come?» chiese Demi, sul quale la vecchia esercitava un fascino speciale e che pensava che ci fosse qualcosa di divertente perché vedeva Dan sorridere fra sé e sé. Aveva imparato da una buona donna, appassionata dei gatti, che le aveva dato certa roba e le mandava tutte le sue bestie perché le ammazzasse in quella maniera. Metteva una spugna imbevuta di etere in fondo a un vecchio stivale, poi ci cacciava dentro il gatto a testa in giù, l'etere lo faceva addormentare in un baleno. E prima che si svegliasse, lei lo affogava nell'acqua calda. Speriamo che i gatti non sentissero davvero nulla. Lo racconterò a Daisy. Tu hai visto un mucchio di cose interessanti, vero?» chiese poi, riflettendo alla vasta esperienza di un ragazzo che era scappato più volte e se l'era cavata da solo in una grande città. «Vorrei quasi non averle vedute. Perché? Non ti fa piacere ricordarle?» «No. È una cosa strana. Quanto è difficile governare la nostra mente», disse Demi, intrecciando le dita attorno al ginocchio e rivolgendo lo sguardo al cielo come per averne spiegazione sul suo argomento favorito. «Accidenti, se è difficile.» «No, non volevo dire così.» E Dan si morse le labbra che si erano lasciate sfuggire la parola proibita, mentre egli desiderava tanto essere riguardoso con Demi più che con chiunque degli altri ragazzi. «Oh, farò finta di non aver sentito», disse Demi, «e tu non ci ricascherai più, ne sono sicuro.» «No, se mi riesce di evitarlo. Ecco una delle cose che non desidero ricordare. Io continuo a fare del mio meglio, ma non mi sembra di combinare nulla di buono», disse Dan in tono scoraggiato. «Non è vero, non dici neppure la metà delle parolacce che dicevi prima. E la zia Jo è contenta perché assicura che è un'abitudine difficile da perdere.» «L'ha detto proprio?» chiese Dan, rischiarandosi un po'. «Tu devi mettere le imprecazioni nel cassetto dei tuoi difetti e chiuderlo a chiave. Io faccio così con la mia cattiveria.» «Che vuoi dire?» chiese Dan, guardandolo come se lo trovasse non meno interessante di una nuova specie di coleottero. «Beh, è uno dei miei giochi segreti, ma te lo dirò se non mi prendi in giro», disse Demi, contento di dilungarsi sul suo argomento favorito. «Io immagino che il mio cervello sia una stanza rotonda e la mia anima una creaturina alata che ci viva dentro. Le pareti sono coperte di scaffali e di cassetti nei quali tengo i miei pensieri, la mia bontà e la mia cattiveria, e ogni sorta di cose. Quelle buone le tengo bene in vista e quelle cattive le chiudo sotto chiave, ma escono lo stesso e io ho un bel da fare a ricacciarle e a pigiarle dentro. Sono così forti. Coi pensieri mi diverto quando sono solo o a letto e li dispongo a modo mio e ne faccio quello che voglio. Tutte le domeniche metto in ordine la mia stanza e parlo con lo spiritello che vi abita e gli dico che cosa deve fare. Qualche volta è molto cattivo e non mi vuol dare retta e io devo sgridarlo e portarlo dal nonno, che riesce sempre a ricondurlo al dovere e a farlo pentire delle sue colpe. Perché al nonno piace questo gioco e mi dà delle cose belle da mettere nei cassetti e mi insegna a tenere chiuse quelle cattive. Non vuoi provare anche tu a fare così? È un ottimo sistema.» Ed Amy aveva un'aria tanto seria e fiduciosa che Dan non rise di quella strana fantasia, ma disse con tono serio: «Non credo che ci sia una serratura abbastanza forte per tener chiusa la mia cattiveria. Del resto la mia stanza è in un tale stato di disordine che non so come riassettarla.» «Eppure tieni i cassetti dello stipo in un ordine perfetto, perché non puoi far lo stesso con gli altri?» «Beh, non ci sono abituato. Vuoi insegnarmi tu?» E Dan parve avesse realmente l'intenzione di tentare il sistema infantile di Demi per tenere in ordine l'anima. «Lo farei ben volentieri, ma in che modo? Forse parlando alla maniera del nonno. Non sono bravo come lui, ma tenterò.» «Non lo dire a nessuno, ma ogni tanto verremo qui e ne ragioneremo insieme, e io ti compenserò raccontandoti tutto quello che so sulle cose che mi interessano, ti va?» E Dan tese la grossa mano rude. Demi mi pose prontamente la sua piccola mano liscia e il patto fu concluso, perché nel lieto mondo pacifico in cui vivevano i ragazzi, leoni e agnelli giocavano insieme e i piccoli insegnavano con la loro innocenza ai più grandi. «Zitto!» disse Dan, accennando verso la casa mentre Demi stava per iniziare un altro discorso sul modo migliore di cacciare in fondo al cassetto la cattiveria e di tenercela prigioniera. E osservando dal loro nido aereo, videro Mamma Jo che si avvicinava lentamente, leggendo, mentre Teddy le trotterellava dietro trascinando un carrettino capovolto. «Aspetta che ci vedano», mormorò Demi, e i due ragazzi rimasero immobili finché gli altri non furono più vicini. La signora Jo, così assorta nel suo libro, che sarebbe andata a finire nel ruscello se Teddy non l'avesse fermata dicendo «Mammina, vollo peccale!» La mammina chiuse il libro interessante che da una settimana tentava invano di leggere e si guardò in giro in cerca di una canna da pesca, avvezza com'era a creare dei giocattoli dal nulla. Ma prima che avesse spezzato un ramo dalla siepe, una sottile verga di salice cadde ai suoi piedi. E alzando gli occhi, ella vide i ragazzi che ridevano nel nido. «Su, su!» gridò Teddy, tendendo le braccia e agitando le sottanine come per spiccare il volo. «Io scenderò e tu salirai. Devo andare da Daisy». Ed Amy si allontanò, continuando a rimuginare il racconto dei 19 gatti con gli eccitanti episodi dello stivale della botte. Teddy fu subito issato su e Dan disse ridendo «Perché non viene anche lei? C'è tanto posto! Le darò una mano». Mamma Jo si guardò dietro le spalle, ma non c'era nessuno in vista, e divertendosi dello scherzo rise anche lei. «Bene, se non dirai nulla, verrò», e con due salti fu nel nido. «Oh, non mi sono più arrampicata su un albero da che sono sposata. Mi piaceva tanto quando ero ragazza», disse soddisfatta di quel recesso ombroso. «Ora, se ne ha voglia, legga pure. A Teddy baderò io», propose Dan, cominciando a fabbricare una canna da pesca per l'impaziente bambino. «Non mi pare di averne più voglia. Che facevate tu ed Amy?» chiese lei, intuendo dall'espressione seria della sua faccia che Dan aveva qualcosa per la testa. «Oh, si chiacchierava. Io gli davo qualche spiegazione sulle foglie e cose simili, e lui mi parlava di qualcuno dei suoi giochi così curiosi. Ecco, ora va pure a pescare». E Dan completò il suo lavoro infilzando una grossa mosca azzurra sullo spillo piegato all'estremità della corda che aveva legata al ramo di salce. Teddy si sporse dall'albero e si immerse nella fiduciosa attesa del pesce. Dan lo teneva per la sottanina perché non avesse a fare un tuffo nel ruscello e Mamma Jo presto lo indusse a discorrere dando ella stessa l'esempio. «Sono così contenta che tu parli con Demi delle foglie e cose simili. È proprio quello che gli ci vuole. Io vorrei che tu gli insegnassi e lo conducessi a spasso con te. Magari è così intelligente, ma... ma che cosa? Non credevo che lei si fidasse. E perché non dovrei fidarmi? Ma Demi è così caro, è così buono, mentre io sono un cattivo soggetto e credevo che lei lo volesse tenere lontano da me. Ma tu non sei un cattivo soggetto, come dici. Io ho piena fiducia in te, Dan, perché tu fai onestamente di tutto per migliorarti e migliori infatti di settimana in settimana». «Davvero?» E Dan le alzò gli occhi in viso mentre dal suo volto dileguava l'ombra dello scoraggiamento. «Sì? Non te ne rendi conto? Lo speravo, ma non ne ero sicuro». «Io ho aspettato, osservandoti in silenzio, perché volevo prima metterti bene alla prova, disposta, se tu l'avessi superata, felicemente a darti la migliore delle ricompense in mio potere. E tu l'hai superata bene, e ora non solo sono pronta ad affidarti Demi, ma il mio stesso figliolo, perché tu puoi insegnare loro certe cose meglio di quanto possiamo fare noi». «Davvero?» E Dan sembrava sbalordito da quell'idea. «Demi ha vissuto tanto fra gente troppo vecchia per lui, e ha proprio bisogno di quello che hai tu, conoscenza di cose comuni, forza e coraggio. È persuaso che tu sia il ragazzo più coraggioso che abbia mai conosciuto, e ammira il tuo modo deciso di agire. E poi tu sei bravo nella storia naturale, puoi raccontargli un mucchio di cose sugli uccelli, le api, le foglie e gli animali, molto più meravigliose di quelle dei suoi libri. E queste storie, essendo vere, lo istruiranno e gli faranno bene, Lo vedi ora quanto puoi essergli utile e perché ho piacere che stia con te? Ma certe volte io impreco e potrei insegnargli qualcosa di male. Non lo faccio apposta, ma mi scappa di bocca, proprio come quell'accidente di poco fa. Disse Dan, ansioso di fare il suo dovere e di rivelarle le sue mancanze. Io so che tu cerchi di non dire o fare nulla che possa nuocere al tuo piccolo amico, ed è in questo che Demi gioverà a te, perché è così innocente e saggio come gli si può essere alla sua età, e ha quello che io cerco di darti, caro, dei buoni principi. Non è mai troppo presto per impiantarli in un bambino, né troppo tardi per coltivarli anche nell'individuo più trascurato. Voi siete ancora così giovani e potete insegnarvi a vicenda. Demi rafforzerà senza accorgersene il tuo senso morale e tu il suo senso comune, e io avrò l'impressione di avervi aiutati tutti e due. È impossibile rendere a parole la gioia e la commozione di Dan a quell'elogio che esprimeva tanta fiducia. Nessuno mai prima si era fidato di lui, nessuno si era curato di scoprire e di coltivare quanto c'era di buono nel suo cuore. Nessuno aveva sospettato tutto quello che si nascondeva nell'animo di quel ragazzo abbandonato, che pur correndo verso la rovina era pronto ad avvertire e ad apprezzare ogni prova di simpatia, ogni aiuto. Qualunque onore potesse acquistarsi in seguito, non sarebbe stato pari al diritto di insegnare le sue poche virtù e il suo magro bagaglio di cognizioni al fanciullo che gli rispettava sopra tutti. E nessun freno avrebbe potuto essergli imposto più efficace dell'innocente compagno affidato alle sue cure. Trovò ora il coraggio di parlare a Mamma Jo del progetto ventilato con Demi, ed essa fu felice che il primo passo fosse stato fatto così naturalmente. Tutto pareva concorrere ormai al bene di Dan, ed ella ne godeva per lui perché il compito le era dapprima apparso assai difficile. E ora, mentre lavorava con ferma fede nella possibilità di riformare soggetti ben più anziani e restii di lui, ecco che era venuto questo improvviso cambiamento a incoraggiarla, dandole nuove speranze. Egli sentiva di avere amici e un posto nel mondo, qualcosa per cui vivere e lavorare, e sebbene poco parlasse, pure quanto c'era di migliore e di più eroico in un carattere maturato da una dura esperienza, rispondeva all'amore e alla fiducia accordatagli, e la salvezza di Dan era assicurata. La loro tranquilla conversazione fu interrotta da un grido di gioia di Teddy che, con grande stupore di entrambi, aveva realmente preso una trota là dove da anni trote non si vedevano. Era così felice che insisté per mostrarla a tutti prima che Asia la facesse cuocere per la cena. I tre quindi scesero dall'albero e se ne andarono insieme, molto contenti e soddisfatti del lavoro di quella mezz'ora. Dopo di loro arrivò sull'albero Ned, che però vi si trattenne poco, aspettando comodamente seduto che Dick e Dolly riempissero per lui un secchiello di cavallette e di grilli. Voleva fare uno scherzo a Tommy, mettendoglieli nel letto, di modo che appena vi fosse entrato dovesse schizzar fuori e passare parte della notte dando la caccia a quelle bestie saltanti per tutta la camera. La raccolta fu presto fatta, e dopo aver compensato i cacciatori con qualche mentino, Ned si allontanò per andare a preparare il letto a Tommy. Per un'ora il vecchio Salice sospirò e canterellò per sé solo, poi chiacchierò col ruscello e osservò le ombre che si allungavano con l'avvicinarsi del tramonto. Quando il cielo cominciava a dare riflessi di rosa ai suoi rami flessibili, un ragazzo arrivò furtivamente per il viale, attraversò il prato e, visto Billy sulla riva, gli venne vicino dicendogli in tono misterioso: «Fammi piacere, va a dire al signor Baer che desidero vederlo qui, ma che nessuno ti senta». Billy corse subito via. E il ragazzo salì sull'albero, dove sedette ansioso, ma non insensibile al fascino del luogo e dell'ora. 5 minuti dopo comparve il signor Baer, che, salito sulla barriera, fece capolino nel nido, dicendo con la sua solita bontà: «Son contento di vederti, Jack, ma perché non sei entrato in casa dove eravamo tutti?» «Volevo parlare prima con lei. Lo zio mi ha rimandato qui. So che non merito nulla, ma spero che i compagni non saranno troppo duri con me». Il povero Jack non si esprimeva con troppa eloquenza, ma il suo pentimento era palese. Si vergognava di quanto aveva fatto e desiderava essere accolto il meno male possibile, perché lo zio lo aveva picchiato di santa ragione e rimproverato aspramente per aver seguito l'esempio che lui stesso gli dava. Jack lo aveva supplicato di non rimandarlo a Plumfield, ma siccome la retta era modesta, il signor Ford aveva tenuto duro e il ragazzo era tornato il più quietamente possibile, rifugiandosi dietro il signor Baer. Speriamolo, ma io non posso rispondere di loro. Provvederò però che non siano ingiusti. Nat e Dan hanno sofferto tanto pur essendo innocenti, e credo che tu pure potrai soffrire qualcosa essendo colpevole, non ti pare? Chiese il professore che, pur compiangendo Jack, trovava che meritava di essere punito per una colpa così poco scusabile. Lo credo anch'io, ma ho restituito il denaro a Tommy, ho chiesto scusa, non basta? Disse Jack assai depresso, perché un ragazzo capace di un'azione così bassa non è di solito abbastanza coraggioso da saperne sopportare le conseguenze. No, credo che tu dovresti chiedere perdono a tutti e tre i ragazzi apertamente e onestamente. Non puoi aspettarti per qualche tempo di godere il loro rispetto e la loro fiducia, ma puoi sopportare la tua triste condizione e io ti aiuterò. Il furto e la menzogna sono cose detestabili e questa spero che sarà per te una lezione efficace. Sono contento che tu ne provi vergogna. È un buon segno. Sopportala pazientemente e fa del tuo meglio per guadagnarti una reputazione migliore. Farò un'asta e svenderò tutta la mia roba, disse Jack, dimostrando il suo pentimento in modo assai caratteristico. Credo che sarebbe meglio regalarla e ricominciare su basi nuove. Prendi per motto l'onestà è la migliore politica e traducilo nelle tue azioni, nelle parole e nei pensieri. E se anche non guadagnerai un soldo quest'estate, sarai un ragazzo ricco nell'autunno, disse il signor Baer con tono serio. Era duro, ma Jack acconsentì, perché realmente persuaso che truffare non gli avrebbe servito, desiderava riguadagnarsi l'amicizia dei ragazzi. Era attaccato ai suoi averi e gemeva nell'intimo suo all'idea di regalare alcune cose preziose. In confronto a questo, chiedere perdono in pubblico gli pareva assai più facile. Ma poi cominciò a scoprire che certe cose, invisibili ma di maggior valore, rappresentavano una proprietà preferibile a coltelli, ami da pesca e allo stesso denaro. Decise quindi di comperare un po' di onestà anche a caro prezzo e di assicurarsi il rispetto dei suoi compagni, sebbene non fosse un articolo in vendita. «Beh, lo farò», disse con una subitaria risoluta che piacque al signor Baer. «Bene, e io ti sosterrò. Ora vieni e comincia subito». E papà Baer ricondusse il ragazzo fallito nel piccolo mondo che dapprima lo accolse freddamente, ma a poco gli si dimostrò più cordiale quando vide che aveva approfittato della lezione e che era sinceramente desideroso di mettersi in un migliore genere di affari con una nuova partita di merci.